el amor con otra persona. Pero el corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona. Tanta soledad va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño, y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que mi... Sleepy little baby, go to sleepy little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, all the pretty little horses. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses. Way down yonder in the meadow lies a poor little lambie. Bees and butterflies flitting round his eyes, poor little thing is crying, mammy. Your head upon the clover, rest your head upon the clover. In your dreams you shall ride while your mammy's watching over. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses, all the pretty little horses, all the pretty little horses. Questo è Disorder per oggi, lunedì 3 marzo del 2024. E prima della sigla ci siamo ascoltati Oh The Pretty Little Horses, Current 93 con ospite Nick Cave, e ancora prima una... il compagno automatico ci ha riservato un vecchio ricordo, Snaker Pimps, Six Underground. Era tantissimi anni che non l'ascoltavo e per caso l'ho beccata appunto sulle nostre, diciamo, possibilità tecnologiche. Invece questo è Disorder dei Joy Division, naturalmente, che va ad introdurre l'omonimo spazio che andrà in onda sino alle 23 circa su www.ondarossa.info, che è il nostro riferimento web. Lights are flashing, cars are crashing. sul quale sito, e bisogna sempre ricordarlo, ci sono le varie modalità per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Vado a salutare Maia in Umbria, Tabula Rasa Cortina d'Ampezzo, Marco Magia di Progetto Sonoro, Dark Ambient Sarda, Moschita de Miramar, Simona della Morte come Trait e Feralia Planizia con dei nuovi lavori con entrambi i progetti che presto ci ascolteremo su queste frequenze. Tiziano Zero Farinacci di Pigreco, Sarah Boy in quel di Berlino, Anna qui a Roma. Vado a salutare anche Barbara Caridi, artista a 360 gradi qui da Roma. Des De Carlo da Boston, La Furnasetta dal Piemonte, Grossa Realtà Industrial, Alessandria Mentana. Nicola Locci in Sardegna di Stigmate e Hexagonal. Vado a salutare Giorgia Lee e Simone Pitt, Simona Scalise di Audio Chaos, Lucia Cagliazza di Lupsi, e poi Davide Mastrullo di Canglore, Massimo a Torino. Più si ricorderanno che Disorder ritorna dopo una settimana di assenza ed eravamo rimasti, e con questa sera lo andiamo a concludere, l'ennesimo ascolto di Christian e Mauro, ossia l'ultimo lavoro di Teo Teardo e Blix Bargeld. Quadretti orchestrali acustici assai mesti, e sono d'altronde delle componenti che hanno contraddistinto i quattro lavori di questa collaborazione molto azzeccata. Un Blix Bargeld che canta anche in italiano, mentre le musiche sono sostanzialmente tutte di Teo Teardo. E allora, questa sera ci ascolteremo Durchmisch e Meschenenste Safter. Mein Gehirn bespitzelt mich, welche Wesen ich noch werde und welche ich schon war. Ich war schon irgendetwas und auch sein Gegenteil. Die Celestialen meinesgleichen, meinetwegen alles durch mich, durch mich. Avalokite Shvara oder Guanin. Ich spiele mit den Chiffren, Lettern, Zeichen meiner mythologischen Klaviatur. A science fiction glam rock god from a parallel universe. Der zerstückelte Osiris, der nicht mehr singen kann, außer durch mich. durch mich. Durch mich. Durch mich. Der Altkönig. Ein goldener Körper, Knochen aus Silber und Haar wie Lapis Lazuli. Agrumi, pelmani, spremi agrumi, per umani, makes good umami with only little brain. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Makes good umami mit wenig Hirn. Brauchen keinen Strom, bisschen Druck reicht aus. Sie saften und saften und saften, bis nur noch Dummheit übrig bleibt. Ci sono molti spremi agrumi per umani, di nuovo in circolazione. Non hanno bisogno di elettricità. È sufficiente una piccola pressione, come una pressa tanatre all'antica, per una nuova era. Ich halte die Wunde offen, die Wunde, die mich nährt, Menschen entsafter. Menschen entsafter. Spremi agrumi per umani. Spremi agrumi per umani freschi. Manchmal sind sie ganz in der Nähe. Manchmal sind sie noch weit weg. Manchmal rotten sie sich zusammen, manchmal bleiben sie lieber allein. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Like a duck press for a new time. Spremi agrumi per umani. Spremi agrumi. Quanto è accattivante queste, quanto sono accattivanti queste tavolozze espressive, questi episodi orchestrali di Teatro Eardo e Blixa Bargeld, anche in questo Christian e Mauro. uscito nell'ottobre dello scorso anno. Ormai abbastanza riconoscibili. C'è sempre questo approccio quasi cinematico, appunto da colonna sonora, cosa che sovente ha fatto Teo Teardo. Machine and Safter e Duch Mich, i due brani per questa sera. Cara Sara Boy, spremi agrumi, anche se il brano in questione forse era una metafora, magari. Saluto anche Giulia qui a Roma. Saluto Jean-Vier dei Siberia. Adesso andiamo a Napoli, andiamo dalle corde oblique e andiamo da Cries and the Whispers, l'ultima fatica, un'ottima fatica, dopo molti anni di silenzio per questo combo proveniente appunto dalla campagna, fondato e capitanato da Riccardo Principe, che suona tutte le chitarre. Una piccola grande orchestra. E si segnala questo Cries and Whispers, sussurri e grida, ispirato al film di Bergman, come un album un po' diverso rispetto a quelli del passato, giacché una prima parte la si può considerare un po' metà tra il neofolk acustico solito, ma anche con dei passaggi di rock evoluto, al limite anche del metal. Quindi una sorpresa assai grande quando abbiamo sentito questo album. Questa sera ci andiamo ad ascoltare John Ruskin e A Step to Lose the Balance. Le corde oblique che non ti aspetti con queste svisatine di chitarra elettrica. I pioni stanno zitti. Estratta dunque da Cries and Whispers, il loro ultimo lavoro uscito nel febbraio di quest'anno, quindi di recentissima uscita. Hanno i vetri appannati e gli addobbi sfocati. Il mio desiderio curva in un infuso. Riccardo Principe suonava le chitarre e poi c'era la splendida voce di Rita Saviano. Sessuato da altro continente. Ospite anche Caterina Pontrandolfo. Anche Simone Salvatori in un brano. Guardava. Poi c'è il violino di Edo Notarolberti, la batteria di Alessio Sica, il basso di Umberto Lepore, il pianoforte di Luigi Rubino, bellissimo. Sì. Poi sta andando sotto la mia voce. Ti espulsi, due gatti schivi. Quindi un cambiamento abbastanza netto in questo album, come ho già detto, un po' a metà tra queste nuove sonorità elettriche e il vecchio patrimonio acustico. Le famiglie divise vanno lente, i loro figli scartano regali. Adesso arriviamo dal diciamo leggermente più vicino, e i loro genitori, e andiamo dagli amici Siberia, progetto Sinpop qui di Roma. Nuotano verso. Saluto Jan Veer, forse all'ascolto. Janko Filipovic, se non ricordo male, il vero nome, di origine serba. A loro. Che ci ha reso edotti sul fatto che a breve uscirà un nuovo album, spero proprio nel 2000, durante il 2025, ma intanto è uscito un interessantissimo, diciamo, singolo. E si slacciano. Che ci ha fatto scoprire una nuova facciata di Siberia, più votata verso il gothic rock, quindi una dimensione abbastanza diversa appunto dal synth-pop del passato. Potrete constatare forse delle venature dei primi Bauhaus. Venature presente appunto in questo Temple Rises to the East che ci andiamo ad ascoltare, Siberia. Amore è una natura morta, un pomo ancora fresco che annaspa. Il suono è una natura morta. Dunque, Siberia, tornati, diciamo, in attività, non perché avessero smesso, diciamo, tornati ad incidere delle cose nuove, questo Temple Rises to the East, che andrà ad anticipare, spero, un imminente album con questo, diciamo, approccio più gothic rock che io personalmente ho apprezzato. Questi invece erano i vecchi Siberia. Ho letto poi che in sede di remixaggio c'è anche un personaggio noto nella scena elettronica romana, tal Luciano Lamanna, che molti di voi conosceranno. Credo che attualmente Siberia siano in tre, se non in quattro addirittura. Abbiamo Gianvira che ci sta ascoltando, lo vado a risalutare, casomai ce lo conferma, come se vuole può mettere i vari riferimenti, link di riferimento. Credo che loro abbiano i vecchi lavori su Spotify. E intanto vado a salutare il medico della peste, Mariano Nitarri, entrambi da Roma.